Altro intorno sua sfera, tutto il fuoco cupino a tuoi bei lumi, onde non è stupor s'ardi e consumi anche un gelido sen. Thank you. Raccontami Thank you. Baby! servo.